Devo dire al momento bene, nel senso che finalmente la trattativa è ripartita, la consideriamo al momento una svolta importante. Abbiamo fissato il giorno del prossimo incontro, che sarà mercoledì prossimo in Confindustria, a cui poi seguiranno altre riunioni con un ritmo abbastanza serrato. Ci siamo dati l'obiettivo di terminare entro il 30 settembre e abbiamo deciso di partire subito dal cuore del problema, quindi cominciare subito a trattare il tema degli assetti contrattuali, il rapporto tra il contratto nazionale e il contratto aziendale. Quindi per il momento bene, poi chiaramente verificheremo nel merito quali saranno le reali possibilità di andare avanti.